Italia in controluce. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. Una nuova puntata di Italia in controluce dedicata alle stragi di mafia. Dall'omicidio del giudice Falcone il 23 maggio del 92 e a distanza di pochi mesi l'attentato contro il giudice Borsellino. La parola a Daniele Biacchessi. Maggio 1992, 20 anni fa. La strage di Capaci, dove perdono la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, rappresenta certamente il salto di qualità della mafia, cioè l'attacco allo Stato. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco. Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini. Altri 3 nomi sono la vita bianca. E basta. Non riesco a crederci che dei colleghi con la quale sono stato a scherzare fino alle 14.30 prima che lo riusciamo di servizio, siamo come nostri. Non riesco a crederci ancora. Ci ho scherzato perché dovevo andarci anch'io assieme. L'ho visto andare via, uscire fuori e purtroppo non sono più rientrato. Sono rimasto lì sul tratto della strada. Non si capiva da che parte era, se la testa era i piedi non esistevano, braccia tranciate, un po' di brandello di carne. Abbiamo visto un po' qui, qua, cervello spappolato. Sono arrivati i vigili del fuoco con gli arnesi adatti per poterli estrarre. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano. Giustizia, stanno gridando in questa piazza gremita all'inverosimile. Giustizia. Un cavaliere senza macchia passato di vittoria in vittoria sul cavallo bianco, non è vero, non è la verità. È un uomo che ha sofferto umiliazioni, ha sofferto tradimenti, ha sofferto calunnie, è un uomo che ha sofferto di inimmaginabile. Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere, certo non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questa genesi, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora ha la mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima. Il Presidente della Repubblica è stretto da una morsa. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia,